Libero di nome di fatto? Sì. No, libero di nome, di fatto sono coniugato. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E sì, ormai nel fuori onda le vicende di Libero, coniugato, è diventato il nostro must. Detto questo, buongiorno a tutti e ben ritrovati da Deborah Rosciani a Cuore e Denari in questi giorni in conduzione solitaria. La nostra Nicoletta Carbone torna la prossima settimana, necessariamente ci siamo un po' suddivise qualche giorno di vacanza, ma andiamo subito al tema di questa mattina. Siamo solo al 3 gennaio, sarebbe sicuramente azzardato fare troppe previsioni sul futuro e su come verrà ricordato questo 2014 che si è appena aperto. Di una cosa però qui a Cuore Denari possiamo essere certi: saranno senza dubbio molto frequenti le occasioni che questi 365 giorni ci daranno per parlare delle nostre case, le nostre case attuali o magari quelle future. A volte le nostre mura domestiche sono fonte di preoccupazione soprattutto per i denari, ma poi si parla sempre della nostra casa, dolce casa, luogo prezioso e che dobbiamo saper curare e costruire anche con un'attenzione speciale al nostro benessere. 800 24 00 24, subito il via alle vostre telefonate per poterci raccontare, se volete, quale sarà il 2014 per la vostra casa dolce casa. Avete in programma di cercarne una, di comprarla, di venderla, di affittarla oppure di ristrutturarla o magari trasformarla, ad esempio, chissà, ritagliare uno spazio benessere per fare un po' di ginnastica? Ci avete mai pensato? Noi però oggi, questo è un tema che affronteremo nella seconda parte del programma, partiremo con una notizia della quale si parla da qualche giorno. Con un po' più di insistenza, per la verità se ne parla già da qualche settimana, dal 1 gennaio sono scattate aliquote più leggere per la tassazione dei trasferimenti immobiliari. Vi spiegheremo che cosa vuol dire, che cosa cambia. Voi iniziate a prenotare le vostre domande, oltre al numero verde potete farlo anche al 349-238-6666, su Facebook, su Twitter. Ora possiamo partire. Salva Danaio. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Casa mia. Il settore della casa è sempre in fermento, lo è soprattutto dal punto di vista legislativo, lo sappiamo bene, e il primo gennaio ha dato il via a tante novità e riguardano in particolar modo coloro che sono in procinto di concludere un affare immobiliare e soprattutto chi sta decidendo di comprare casa. Dal primo gennaio sono scattate le nuove norme sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari e, da quanto abbiamo capito, ma possiamo anche aver capito male, le nuove norme sono più vantaggiose per i futuri proprietari. La legge che le prevede è stata varata a settembre, si tratta di misure contenute nel decreto istruzione e si sono sommate alle misure contemplate in un provvedimento precedente, il decreto IMU del marzo del 2011. Tutti questi provvedimenti introducono novità che vanno a rimodulare l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari e si tratta per lo più di una semplificazione, ma non voglio anticiparvi altro perché tutti i dettagli stamattina li affronteremo con i nostri ospiti. Il nostro notaio preferito, il massimo esperto mondiale di rogiti, Angelo Busani, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. E buon anno naturalmente anche a lei. In questi giorni ha scritto tantissimo per il Sole 24 Ore su questi temi, per chi si fosse perso questi articoli. Naturalmente oggi ne vi facciamo un bel riepilogo, ma abbiamo chiesto anche un'ulteriore consulenza, quella di Alberto Bonino, esperto di trasferimenti immobiliari di Agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti. Buongiorno e buon anno, Bonino, anche a lei. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. E allora, 800 24 00 24 è il numero verde se volete immediatamente cominciare a fare le vostre domande su queste novità, perché tra l'altro c'è anche da chiarire una situazione che è quella classica delle condizioni a cavallo. Chi ha già fatto magari un compromesso nell'anno precedente e finalizzerà la compravendita nelle prossime settimane deve capire bene se pagherà la tassazione nuova più vantaggiosa oppure quella precedente, ma adesso capiremo tutto appunto con i nostri ospiti. Prima di tutto partiamo dalle imposte tradizionali, notaio Busani, che si pagano quando si finalizza un atto di compravendita immobiliare. Poi parleremo delle novità, ma mediamente le tre tasse famose che si pagano quali sono? Allora, c'è da fare una distinzione, è sì. Materia apparentemente semplice ma praticamente complicatissima. Infatti. Allora, bisogna distinguere chi è che vende. Se no lei scriverebbe per Novella 2000, invece lo fa per il Sole 24 Ore. Per Donna Moderna. Allora, bisogna distinguere chi vende, se il venditore è un soggetto IVA, quindi ad esempio una società costruttrice, lì l'atto è disciplinato dalla normativa IVA che tendenzialmente non cambia rispetto al 2013. Qualche piccola variazione c'è anche lì, magari dopo ne parliamo. Però ciò che cambia veramente è l'imposta di registro, quella che si paga quando il venditore è un privato. E le due principali novità sono che l'imposta di registro per la prima casa scende dal 3% che si pagava fino al 31 dicembre scorso al 2%, e lì c'è un affievolimento. Affievolimento anche perché fino al 31 dicembre 2013 si pagava l'imposta ipotecaria di 168 euro, l'imposta catastale di 168 euro, l'imposta di bollo e le tasse ipotecarie di complessivi 320 euro. Ecco che nel 2014 questi 320 più 168 più 168 non si pagano più. Fatto sta che il conto totale dell'acquisto della prima casa è abbastanza più agevole rispetto a quello che si pagava precedentemente. No, tra l'altro posso già dire che anche per voi ci sono un po' meno adempimenti, perché se tutte queste tassazioni che generalmente venivano finalizzate davanti al notaio, eravate voi che dovevate versare tutto questo, mi sbaglio? Le versavamo noi, ma per noi gli adempimenti non cambiano perché sono esattamente gli stessi, non cambia praticamente quasi nulla. Con riguardo invece all'acquisto non della prima casa, ma di una casa non prima, quindi però una minor frequenza di questi atti, perché gli atti di solito nella maggior parte dei casi riguardano prime case, lì abbiamo un aumento dell'imposta di registro, si passa dal 7 al 9%, però vengono meno le imposte ipotecarie catastali che erano del 3% complessivo, si pagherà solo 100 euro, quindi nonostante l'aliquota del registro si alzi dal 7 al 9%, l'esito complessivo della tassazione è una compensazione, diciamo. Anche lì c'è un calo. Queste sono le principali novità. Ecco, c'è già fermento tra i... Allora, perché voi notai avete sollevato la questione, come dire, delle situazioni a cavallo? Chi ha per esempio firmato un compromesso a settembre ma va a rogitare a febbraio per l'acquisto appunto della sua prima casa, qual è la tassazione a cui sarà sottoposto? Allora, le situazioni a cavallo sono facili. È capitato un po' di miscuglio, di confusione, perché qualche ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha interpretato male questa normativa, che ho detto è facile apparentemente, poi praticamente è abbastanza difficilotta. Comunque anche qui la regola è semplice: ciò che viene stipulato davanti a notaio dopo il 1 gennaio 2014, anche se il compromesso è stato fatto prima, è regolato dalle nuove norme. Ciò che è stato stipulato fino al 31 dicembre scorso ma registrato dopo è regolato dalle vecchie norme. Quindi chi fa il rogito oggi paga con le nuove norme, chi ha fatto il rogito fino al 31-12 paga con le vecchie norme, chi ha fatto il compromesso prima del 31-12 ma fa il rogito nel 2014 paga con le nuove norme. Perfetto, quindi è il rogito che... Ovviamente se il compromesso è stato registrato, visto che le tasse di compromesso si defalcano dalle tasse di rogito, le tasse di rogito andranno calcolate con le nuove norme, ma si defalcheranno quelle tasse pagate nel 2013 con le vecchie norme in sede di registrazione del compromesso, ma anche lì non cambia nulla. 800 24 00 24 è il numero verde per tutte le vostre domande, le vostre curiosità su questa novità della quale stiamo parlando questa mattina. Già degli ascoltatori ci stanno scrivendo: sto vendendo la casa che fu di mia mamma, compromesso a febbraio, edilizia convenzionata, quanto pago di tasse? Vabbè, chiaramente intanto bisogna capire il valore di questa abitazione, notaio, però ecco le percentuali possiamo dare, a parte la cifra definitiva, insomma, per il nostro ascoltatore. Però il tema dell'edilizia convenzionata... No, ma in questo caso mi pare che non sia un'impresa che venda, ma sia... privati. È un privato che vende, perché l'edilizia convenzionata fu comprata dalla mamma di questo ascoltatore, evidentemente da un'impresa costruttrice ai suoi tempi, oggi è una vendita tra privati, quindi la tassazione sarà... Molto probabilmente verrà comprata una prima casa e quindi la tassazione sarà il 2% del valore imponibile, che ricordo non è il prezzo ma è la rendita catastale moltiplicata per un certo coefficiente, che nel caso della prima casa è 115,5, quindi 2% sulla rendita catastale moltiplicata più 100 euro di imposta ipotecaria catastale, cioè 50 più 50, niente imposta di bollo, niente più tasse ipotecarie. Allora, il geometra Alberto Bonino ha curato per Agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti che abbiamo spesso ospiti nel nostro programma, una guida, trasferimenti immobiliari, cosa cambia dal 1 gennaio 2014. Dico subito ai nostri ascoltatori che sono amanti dei social network che noi già ieri l'abbiamo pubblicata sul nostro profilo Facebook. Bonino, allora, diceva il notaio Busani, sembra tutto semplice, sembra complessivamente un'operazione di semplificazione, poi però quando andiamo a vedere le questioni pratiche naturalmente dobbiamo valutarne ad una, quali sono secondo le vostre professionalità appunto le questioni ancora non completamente chiare di questa novità? È tutto trasparente secondo voi, tutto cristallino? Sì, effettivamente concordo pienamente con il notaio, perché è da sempre la legge che disciplina l'imposta di registro, che apparentemente sembra molto facile, in realtà ha sempre dimostrato nell'applicazione molti dubbi interpretativi che poi man mano sono sempre stati chiariti dall'Agenzia delle Entrate con appositi circolari, l'ultima tra l'altro risale a maggio del 2013, la quale precisava molti argomenti per i quali sia i notai sia i cittadini non erano sufficientemente informati. La nuova imposta di registro ha voluto, la nuova legge che regola l'imposta di registro ha voluto semplificare, secondo me, riunendo in due sole aliquote che poi in sede di conversione e in sede di approvazione della legge di stabilità 2014 sono diventate tre, perché oltre all'aspetto legato alle compravendite riferite agli immobili urbani c'è anche l'aspetto legato alle compravendite di fondi rustici, tra l'altro compravendite molto seguite dalla nostra categoria, perché da sempre il geometra si occupa di gestione di proprietà immobiliari urbane e rurali soprattutto. In quanto nella prima stesura della normativa anche i trasferimenti di immobili di terreni agricoli venivano tutti assoggettati all'aliquota unica del 9%. E adesso invece qual è? Adesso in sede di approvazione della legge di stabilità è stata modificata questa aliquota reintroducendo l'agevolazione per la piccola proprietà contadina. Cioè l'aliquota è salita al 12% per gli atti di trasferimento di terreni agricoli tra privati non in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, mentre è stata reintrodotta l'agevolazione per la cosiddetta proprietà contadina, cioè un'agevolazione che prevede la riduzione dell'imposta di registro dell'imposta di registro in misura fissa, dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale all'1%. Quindi mi faccio capire bene, geometra Bonino, io sono una marchigiana e vengo comunque da una zona di mare, ma ho molta campagna attorno a me. Qualora fossi, in maniera molto improbabile, ma mi piacerebbe molto, proprietaria di un terreno agricolo in questa zona e volessi venderlo, da quello che ho capito in realtà l'imposta di registro aumenta rispetto alla condizione precedente dal 9 al 12%, se fossi invece un'imprenditrice agricola che volesse vendere questo terreno? Ecco, in effetti rispetto alla condizione precedente si riduce, perché noi dobbiamo partire dalla situazione impositiva in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore della nuova legge, che per i terreni agricoli prevedeva un'imposta di registro pari al 15% più una ipotecaria al 2% e una catastale all'1%, oltre all'imposta di bollo e la tassa ipotecaria, quella in misura fissa dei 320 euro che diceva prima il notario. Questa imposta di registro, nel caso in cui, bisogna anche qui capire chi è l'acquirente, per cui nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto privato, non imprenditore agricolo, ma un soggetto che compra un'area per farsi l'orto, per farsi un frutteto, per farsi un'attività non professionale, al posto del 15% di registro l'imposta scenderà al 12%, mentre analogamente a quello che diceva prima il notaio, l'ipotecaria e la catastale si liquideranno in misura fissa e quindi sostanzialmente ho una riduzione per fare un esempio numerico che piace sempre ai radioascoltatori. Mirko Mioni, il vostro presidente, lo sa bene perché ce ne prepara sempre tanti, quindi esatto, ha costretto anche lei a prepararcene uno. Ci dica, ci faccia immedesimare così, in qualche caso pratico. Se ipotizziamo un valore di un'area agricola di 50.000 euro, abbiamo nella vecchia tassazione un importo totale di 9.230 euro. A carico dell'acquirente? A carico dell'acquirente sempre, mentre dal 1 gennaio 2014 questo importo scenderebbe a 6.100 euro. Allora, voi siete un notevole risparmio. Esatto, voi siete dei tecnici e chiaramente, come dire, guardate un po' di straforo, come si dice in gergo giornalistico, che non è neanche tanto bello, le condizioni del mercato immobiliare. Però mi chiedo, secondo anche quella che è la vostra percezione, Busanno, chiedo a lei, tutto questo servirà a rimettere un po' in moto le compravendite che dai picchi del 2007-2008 sono scese a picco negli ultimi anni? Secondo lei serve una tassazione più favorevole o sono i prezzi di mercato che devono prendere un'altra direzione? No, sono le banche che devono erogare i mutui. E va bene, e questa è la, come dire, è la risposta che ci aspettavamo naturalmente, però insomma, voglio dire, sa, se un atto di compravendita ci fa risparmiare 3.000 euro, adesso qui parlavamo di una situazione agricola, sì, ma però magari andiamo ai privati. Non penso che l'acquisto di una casa dipenda da 1.000-2.000 euro avanti e indietro di tasse, dipende dal fatto che ci abbiano i soldi per pagare il prezzo e che quindi le banche erogano i mutui come li erogavano, non così smoderatamente come negli anni 2006-2008, ma che tornino a un'erogazione normale del credito per chi se lo merita, ecco. Allora 800 24 00 24, pronti tanti dei nostri ascoltatori a farvi delle domande, lo dico ad Angelo Busani e al nostro geometra Alberto Bonino. Cominciamo con Giuseppe da Isernia, che saluto e siamo ancora in tempo ad augurargli buon anno. Giuseppe, benvenuto. Buongiorno anche a lei. Eccoci. E a tutti quanti gli ascoltatori. Ci dica. Senta, io volevo fare questa domanda in virtù del cambiamento delle aliquote. Per quanto concerne una proprietà tra fratelli in divisa e che praticamente sono un terzo, potrebbero essere, se è cambiato un qualche cosa nel momento in cui si va a fare di fatto questa divisione con un rogito notarile. Grazie Giuseppe. Beh, intanto, come dire, il vantaggio fiscale ve lo spalmerete fra tutti e tre. No, notaio. Ah no, già scuota la testa. Già, no, capito male. Le divisioni non sono incise da questa riforma, le divisioni pagavano e pagano l'1% di imposta di registro e questa aliquota non è toccata dalla riforma. Benissimo, allora tra l'altro non ho fatto dire a Bonino, visto che l'avevo lanciata ad entrambi gli ospiti la domanda, se ritiene che appunto una tassazione più agevolata nelle compravendite appunto potrà dare una piccola scossa all'andamento del mercato immobiliare. Bonino, la vostra percezione nel torinese in Piemonte qual è? Ma sostanzialmente concordo con quanto affermato dal notaio Busani, non sono le piccole differenze di imposta, anche se comunque aiutano notevolmente, ma effettivamente è la mancanza di credito da parte delle banche, questo è il primo ostacolo al rilancio delle compravendite, assolutamente. Un'altra domanda è quella di Lorenzo da Vicenza. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno e buon anno a tutti. Anche a lei, ci dica. Allora, la mia situazione è un po' simile a quella dell'ascoltatore precedente, però io e mio fratello, anche noi siamo comproprietari, però purtroppo di due appartamenti in seguito a successione ereditaria. Noi, anziché fare la compravendita, vorremmo permutare le nostre quote, dopodiché io sarei proprietario totalmente della mia prima casa, mentre per mio fratello quella non sarebbe la sua prima casa e anche non ci abita nemmeno. Volevo sapere se anche in questo caso le imposte sono ridotte e poi se dobbiamo scambiarci l'attestato di prestazione energetica. Ah, l'API, che mi ricordava il notaio Basani, è il tema che ha affrontato l'ultima volta che è venuto in trasmissione da noi. Allora, qual è intanto il vantaggio di una permuta fra eredi, di una permuta di quote, notaio? In questo caso o in caso generale, insomma? Allora, se il quesito è ben posto e i due appartamenti pervengono agli attuali comproprietari da un'unica successione, quindi abbiamo un unico titolo di provenienza della proprietà comune, è assolutamente sconveniente fare una permuta, la quale sarebbe tassata con le aliquote di compravendita e quindi o col 9 o col 2%, perché la divisione, che è l'atto appropriato per questo caso, costa solo l'1%, e quindi nel caso specifico, se ho ben capito il quesito, se il quesito è ben posto, di solito si opera mediante divisione 1% al posto della permuta, la quale è un atto in sé per sé agevolato, perché la permuta vuol dire scambio una cosa contro un'altra, ed essendo uno scambio contestuale, la nostra legge fiscale vuole che sia tassato uno solo dei due trasferimenti, perché giuridicamente avvengono due trasferimenti, Tizio da Caio, Caio da Tizio. Giuridicamente sarebbero due trasferimenti e quindi fiscalmente ci sarebbero da pagare. Una doppia tassazione, invece, certo. La legge fiscale dice, essendo due trasferimenti male, un po' coatti, perché la permuta presuppone il fatto che i trasferimenti siano contestuali, la legge fiscale dice pagane uno solo di questi trasferimenti, quale? Quello più caro, ovviamente. Però comunque non ne pago due, ne pago uno solo. Però la permuta si fa quando i titoli di provenienza dei beni non sono univoci. Nel caso specifico, quindi quando Tizio e Caio comprano, io ho un appartamento comprato per i fatti miei, lei ha un appartamento comprato per i fatti suoi, ci scambiamo gli appartamenti, questa è tipicamente una permuta, ma quando noi due siamo due fratelli e ereditiamo due appartamenti e ognuno di noi vuol diventare proprietario di un appartamento lasciando la comproprietà dell'altro appartamento, lì tecnicamente normalmente si fa una divisione, perché è molto agevolata fiscalmente, perché paga solo l'1% e su questo 1%, ripeto, non c'è stata variazione, certo, nella riforma. Quindi non è vantaggioso fare la permuta nel caso dell'ascoltatore. Per quello che riguarda invece l'attestato di prestazione energetica, l'APE, che appunto non è l'insetto ma un altro tipo di documento, nella permuta ci vorrebbe assolutamente l'APE. Allora 800 24 00 24, continuate ancora ad intervenire. Voleva concludere notaio, non l'ho fatta concludere sul caso della permuta. No, sul caso dell'APE, perché col 31-12 è cambiato, o meglio col 24-12 è cambiata una cosa sostanziale. Nell'ultima trasmissione che abbiamo fatto sull'APE, almeno l'ultima dove ho partecipato io, abbiamo fatto quella trasmissione, era agosto, per il fatto che era uscita una norma che diceva che l'atto senza APE era nullo, la locazione, l'atto, la compravendita, intendiamo il reogito, quindi la finalizzazione del contratto di compravendita. Con il 24 dicembre questa norma è stata cambiata. In agosto parlammo della sconsideratezza dell'introduzione di questa norma, che introduceva una sanzione sproporzionata rispetto all'obiettivo. Già allora si parlava di un emendamento, per questo emendamento ci è voluto qualche mese. È arrivato, fatto sta però che nel DL Destinazione Italia è entrato in vigore il 24 dicembre, l'APE non è stato abolito, l'APE ci vuole sempre, occorre dotare l'appartamento di APE, occorre che il rogito sia fatto in presenza dell'APE, però almeno il meccanismo sanzionatorio nel caso non ci sia non è così pesante. Non è più una nullità, cioè vuol dire non aver comprato nulla, aver pagato in vano un prezzo, ma è solo una sanzione amministrativa, peraltro pesantuccia, perché se non ricordo male va da 3.000 a 18.000 euro, quindi una multa pesante, ma almeno l'atto non è nullo. Però insomma, per questo ci siete voi a ricordare che nel momento in cui si va a rogitare il notaio deve controllare che sia appunto allegato anche l'attestato di prestazione energetica. Dobbiamo andare ai mercati, poi sentiremo Michele da Verbania e chiedo anche di prepararsi ad Alberto Bonino, perché non abbiamo ricordato che queste novità nella tassazione per le compravendite chiaramente esclude ancora una volta determinati tipi di abitazione, le ville, i castelli. Adesso non so quanti di noi vadano ad abitare o siano pronti ad andare ad abitare in queste condizioni, però sappiate che per voi appunto la tassazione, se dovete comprare un immobile di questo tipo, non cambia. Cuore e denari. Voglio andare a casa. A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. È una delle prime puntate dell'anno di Cuore e Denari, non poteva che riguardare uno dei temi sempre preferiti e più gettonati per i nostri ascoltatori, il tema della casa, perché come vi abbiamo spiegato in tutta la prima parte del programma, per tutti i cosiddetti trasferimenti immobiliari, quindi vendite, compravendite di proprietà, cambia appunto la tassazione, in particolar modo l'imposta di registro, che passa dal 3 al 2%. C'è però un minimo di 1.000 euro e poi magari su questo punto ci torniamo con i nostri ospiti, che sono Angelo Busani, notaio, esperto per il Sole 24 Ore, ed Alberto Bonino, esperto di trasferimenti immobiliari di Agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti. 800 24 00 24, raccontateci quale sarà per il 2014 la vostra casa, dolce casa. Avete in programma di cercarne una, di comprarla, di venderla, di affittarla, ristrutturarla, trasformarla. Vi anticipo già che più tardi faremo un piccolo focus sullo spazio benessere della vostra abitazione, se avete intenzione di allestirlo, perché magari volete risparmiare con l'abbonamento in palestra, non avete tempo, non avete così anche la costanza di frequentare un luogo di questo tipo e preferite così fare il movimento nella privacy della vostra abitazione. E allora stiamo parlando dell'alleggerimento della tassazione sui trasferimenti. Adesso sentiremo altre domande da parte dei nostri ascoltatori, però precisiamo appunto, Bonino, come ho anticipato prima, che tutte queste novità non riguardano le abitazioni classificate in categorie catastali molto alte. A 1, a 8, a 9, cosa si nasconde dietro queste sigle? Certamente, una delle novità introdotte dalla nuova normativa riguarda sostanzialmente l'agevolazione per l'acquisto di una prima casa, che è stata limitata agli immobili censiti nelle categorie A, escluso la categoria 10, e agli immobili pertinenziali in categoria C2, C6 e C7. La nuova normativa ha escluso però da questa agevolazione gli immobili censiti nelle categorie A1, A8 e A9. Cosa è cambiato rispetto a prima? È cambiato che fino al 31-12 gli immobili esclusi dalle agevolazioni fiscali per la prima casa erano i cosiddetti immobili con caratteristiche di lusso. Queste caratteristiche di lusso definite dal decreto ministeriale dei lavori pubblici del 1969. Per cui in realtà può, all'occhio di un tecnico, può sembrare quasi la stessa cosa, ma non lo è, perché nella vecchia normativa io potevo anche essere in presenza di un appartamento o di una villetta censita in categoria A2 o A7, ricordiamo per chi ci ascolta che la categoria A2 ricomprende tutte le abitazioni definite di tipo civile e la categoria A7 tutte le abitazioni in villini. Ecco, nel caso in cui queste abitazioni avessero delle caratteristiche particolari, per esempio avessero una superficie utile superiore a 240 metri quadrati, ancorché censite in queste categorie, però non potevano accedere all'agevolazione. Nella nuova normativa non vale più questa distinzione, ma vale esclusivamente la categoria nella quale risultano censiti. Quindi una villetta A7 anche superiore a 240 metri quadrati potrà scontare l'aliquota agevolata e godere dei benefici come abitazione principale, mentre una villetta censita in categoria A1 o A8 assolutamente ne verrà esclusa. Che sono le abitazioni tipo signorile, le ville, come diceva prima, esatto. Castelli e palazzi di pregio artistico e storico, che sono invece ricontemplate appunto nella categoria A9. Sentiamo cosa ci chiede Michele da Verbania, che non abita in un castello, immagino. Michele, buongiorno e buon anno, chiaramente. Buongiorno. Ci dica tutto. Pronto? Sì, ci siamo. Buongiorno anche a voi. Volevo sapere, io ho una seconda abitazione che volevo dare in usufrutto a mio figlio, se in questo caso avevo le stesse agevolazioni. Notaio Busani, qua non è una compravendita tra padre e figlio, non è una successione, non è una donazione, è un conferimento in usufrutto. Che cosa cambia? No, dare l'usufrutto a un figlio significa o venderglielo o donarglielo. Se glielo vendiamo, abbiamo la nuova tassazione, quindi immagino una prima casa, quindi 2% sul valore dell'usufrutto. Ricordo che col 31 dicembre è cambiato il sistema di calcolo del valore dell'usufrutto, perché il tasso legale pure, di sconto... Pure, questa ce la siamo persa. No, leggete i miei articoli su 24 ore. È cambiato il sistema di calcolo dell'usufrutto. Perché il sistema di calcolo dell'usufrutto è basato sul saggio legale degli interessi, che con il 31-12 è cambiato dal vecchio saggio del 2,5% all'1%, cosicché il Ministero dell'Economia ha rifatto la tabella per il calcolo degli usufrutti. Perché non poteva adeguarsi meglio chiaramente al ribasso dei tassi degli interessi legali. È un calcolo matematico. Fatto sta che lo dico, perché chi è capace di calcolarsi il valore dell'usufrutto e aveva le tabelle vecchie. Deve buttarle via e usare le tabelle nuove. Fatto sta che se voglio dare l'usufrutto a mio figlio ho due sistemi. Glielo vendo e quindi mi paga un prezzo. E lì si applica le nuove tasse di compravendita, e quindi immagino una prima casa, e quindi il 2% sul valore dell'usufrutto più due imposte fisse di 50 euro ipotecaria catastale, oppure glielo dono, che è forse il suggerimento da dare a Michele. Il suggerimento fino a lì, perché poi donare una cosa significa renderla difficilmente vendibile da parte del donatario. Tra l'altro, se non ho capito, è una seconda casa, quindi non so se cambia qualcosa. No, è una seconda casa per chi per il signore, ma bisogna guardare sempre chi compra, esatto. Per l'agevolazione prima casa. Fatto sta che se glielo dono, consiglio probabilmente giusto nella fattispecie specifica, consiglio sbagliato in generale, perché donare dei beni significa renderli difficilmente vendibili da parte del donatario, renderli difficilmente appetibili per una banca che deve imprimere un'ipoteca. Fatto sta che se glielo doniamo le tasse di donazione non sono cambiate, quindi tra padre e figlio fino a 1 milione di euro di valore imponibile la donazione è esente da imposte, e se è prima casa paga 2 imposte fisse ipotecaria catastale nella nuova misura di 200 euro al posto della vecchia misura di 168 euro. Quindi qui c'è stato un pochino un inasprimento. 800 24 00 24, ancora abbiamo lanciato prima la questione della permuta delle quote di un'abitazione di proprietà, appunto, e già ci sono molti ascoltatori che ci propongono i loro casi individuali, anche se in realtà noi più che delle permute stiamo parlando appunto delle compravendite e delle novità sulla tassazione, per cui raccontateci se per la verità il 2014 sarà l'anno in cui coronerete il sogno di comprare la vostra prima casa, quella che avete così osservato a lungo, sulla quale avete riposto, oltre che tutti i vostri risparmi, anche tutte le vostre speranze, sarà la vostra casa definitiva. Sappiate appunto che se la compravendita si finalizza fra privati la tassazione è molto più agevolata. Questione un po' diversa se invece abbiamo nella compravendita un soggetto IVA. 349 238 6666. E allora chi leggiamo, è vero che se vendo casa ad un prezzo molto inferiore alle stime catastali posso incorrere in accertamenti fiscali? Cosa consigliate a chi vuole svendere per necessità? Bonino, vuole commentare lei questa situazione di questo ascoltatore che non vuole, appunto, non chiede approfondimenti sul tema delle novità fiscali, ma sul tema del prezzo di mercato. Sì, in effetti va subito chiarito che non è vietato vendere un immobile ad un prezzo inferiore a quello catastale, quindi partiamo subito da questo principio. È importante che sia una transazione che si è finalizzata in maniera trasparente, non che, come dire, sul rogito risulta un prezzo e poi, come dire, in realtà la trattativa va in un altro, in privato va in un altro modo, circola qualche altra somma in maniera non proprio invece cristallina. Ecco. Il principio è che per questo genere di transazioni le agenzie delle entrate possono effettuare gli opportuni accertamenti per la verifica della congruità del prezzo dichiarato, per cui il contribuente non sarà più sollevato da qualsiasi accertamento, come nel caso dichiarasse il cosiddetto valore catastale, e qui entra in funzione l'argomento che noi definiamo di prezzo valore da dichiarare negli atti, nei rogiti notarili, che hanno per oggetto immobili a destinazione abitativa, per cui è chiaro che in una compravendita dove il prezzo è inferiore al valore catastale, io mi trovo di fronte ad una scelta: o vado a liquidare le imposte sul valore catastale anche se è superiore al prezzo pagato, e a questo punto il mio rogito non verrà più soggetto ad accertamenti, o vado a dichiarare il prezzo reale, il prezzo di pagamento, e chiedo di a liquidare le imposte sulla base del prezzo reale di pagamento. A questo punto l'agenzia potrà espletare gli opportuni accertamenti sulla congruità del prezzo dichiarato. Bisogna anche vedere, insomma, dove si abita e qual è poi questa differenza di prezzo che si propone, perché se siamo in una zona particolarmente come dire, Bonino, no? Allettante dal punto di vista dei prezzi di mercato, zona ricca, e la trattativa si conclude a un prezzo assolutamente improbabile rispetto alla zona in cui si abita, è chiaro che si dà poi adito ad un accertamento. In effetti il caso segnalato è abbastanza particolare, di solito si può verificare in presenza di fabbricati particolarmente fatiscenti, no, che sono ancora iscritti a catasto con una categoria e una rendita catastale magari riferita ad una situazione pregressa, e a questo punto trovo questa possibile discordanza. È chiaro che noi come categoria consigliamo sempre di procedere a tutte le variazioni catastali per allineare in ogni direzione la situazione catastale con la situazione reale, affinché il risultato del prodotto, della moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti di legge sia quantomeno congruo con la situazione che troviamo sul posto. Allora, c'è un ascoltatore che su Facebook, ma magari questo tema, se vorranno, i nostri ospiti lo potranno commentare, ma direi che lo trasferiremo in un'altra puntata. Vito ci scrive: con la crisi che c'è, le tasse che dovremo pagare per la prima casa, che sono ridotte, come stiamo spiegando appunto questa mattina, pensate che ci sia qualcuno disposto a comprarla, visto che le verifiche che si potranno avere, visto le verifiche che potranno scattare per sapere dove si sono presi i soldi? Io, Vito, non penso che sia questo un aspetto che possa scoraggiare qualcuno da comprare la propria casa. Se i soldi che si utilizzano per dare una caparra e poi per finalizzare appunto l'acquisto, che in genere sono soldi che arrivano da un mutuo, sono soldi appunto frutto di risparmi, di un'eredità di un familiare, non capisco perché si debba aver paura di un controllo fiscale. Però ogni tanto, notaio Busani, tornano anche queste perplessità fra i nostri ascoltatori, anche se in realtà il redditometro è un po' passato di moda adesso, non è più il tema che campeggia sulle prime pagine dei giornali. Beh, certo, tutte le attività finalizzate a un incremento patrimoniale come quello dell'acquisto di una casa devono trovare giustificazione nel reddito del soggetto che effettua l'acquisto, che può essere un reddito personale e può essere anche una situazione causata dal contesto familiare. Nulla impedisce che io compri un appartamento con i soldi dei miei genitori, se me li prestano, con i soldi dei miei nonni, se me li prestano o me li regalano. E quindi, però, se è tutto tracciato, è tutto regolare, chiaro, se il meccanismo è chiaro. È chiaro che non mi posso andare a comprare una villa Forte dei Marmi con 5 milioni di euro avendo 20 anni e non avendo una famiglia che ha mai maturato questi redditi. E allora, sta un po' attenti. 800 24 00 24, continuate a prenotare i vostri interventi, sono pronti. Marisa da Roma, Luisa da Roma, ma anche il dottor Franco Confalonieri, che saluto e a cui auguro buon anno. Buongiorno Franco. Buon anno a tutti. Eccoci qua, perché con lui ci prenderemo un po' una pausa dai temi a volte un po' pesanti delle tasse, perché cercheremo di capire quali sono i suggerimenti che possiamo dare ai nostri ascoltatori per allestire un piccolo angolo benessere della nostra abitazione, a patto che naturalmente abbiamo lo spazio, perché non è che possiamo comprare un tapis roulant e ciclette e metterli tutti in mezzo alla cucina, vero dottor Confalonieri? Certo, però a volte però non si può servono fare. Neanche attrezzi così ingombranti. Ecco, esatto, soprattutto servono le gambe, che magari, come mi diceva prima anche il notaio Busani, una piccola corsetta in realtà non ci richiede nessun dispendio di spazio ed è appunto forse la cosa più veloce che si può fare. Cuore e denari. Eccoci sempre qui a Cuore e Denari, 800 24 00 24. Raccontateci quale sarà il 2014 per la vostra casa dolce casa. La vostra casa cambierà, dovrete far posto ad un nuovo arrivato, farete lavori di ristrutturazione che sono molto incentivati dal punto di vista fiscale, anche questo è un tema che abbiamo affrontato tantissime volte da questi microfoni, o forse creare un nuovo spazio, ad esempio dedicato al vostro benessere, l'argomento di cui parliamo proprio adesso. Essere e benessere. Fai solo un po' di ginnastica per rafforzare i bicipiti, tonificare i deltoidi, inverno cosce cruditi. E allora niente più spazio per la pigrizia, facciamo un po' di ginnastica anche noi magari a casa nostra. Complice la crisi, la casa può diventare un luogo di esercizi e attività fisica, una vera e propria home fitness, ma guardate che qualcosa possiamo fare anche in ufficio, come ci spiega stamattina un pezzo del 7 del Corriere della Sera. Fitness minimo per allenare il corpo in ufficio, respiro di pancia, danza delle spalle, postura rilassata, cala la tensione da scrivania e si allontana ansia e mal di schiena. Ma tra l'altro, dottor Franco Confalonieri, le palestre forse ancora sono chiuse, non tutte hanno riaperte, ma dobbiamo cominciare un po' a smaltire i bagordi del Natale e del Capodanno. Tornando alla nostra casa, come lo cominciamo a creare questo piccolo angolo di benessere? Sempre ovviamente con un occhio al cuore e un occhio ai denari. Certo, certo. Beh, innanzitutto in funzione dei nostri obiettivi, nel senso che noi a casa possiamo lavorare con tre obiettivi diversi. Il primo, migliorare la nostra forza, rafforzare i bicipiti e i deltoidi, come diceva la canzone di prima. Di Checco Zalone. Ecco, e per migliorare la forza è sufficiente fondamentalmente un tappetino ed eventualmente qualche pesetto di quelli da un chilo e mezzo, fino a 3 chili, nulla di più, perché bastano gli addominali, le flessioni sulle braccia piuttosto che sulle gambe, o l'utilizzo di qualche pesetto, quindi costo ed ingombro minimo. Un altro obiettivo può essere quello di prevenire le patologie legate alla sedentarietà, il mal di schiena, le problematiche al ginocchio, le problematiche alle anche, e anche qua ci sono esercizi fondamentalmente a corpo libero per i quali spesso è davvero sufficiente un tappetino e naturalmente un po' di buona volontà. Quindi costi minimi, spazi minimi, grande comodità. Senta, infine, le faccio. Sì, finisco solo molto rapidamente. No, certo, perché c'è già una domanda per lei di un ascoltatore. Ah. Pensi un po', neanche l'abbiamo presentata. Lei, sono talmente affezionati ai suoi consigli, i nostri ascoltatori, che subito si sono lanciati con domande. Ci dica l'ultimo suggerimento per attrezzarci in casa. Il terzo obiettivo: dimagrire, ritorno alla domanda iniziale, migliorare la nostra resistenza. Qua evidentemente è necessario o un tappeto, un tapis roulant o una bike, una cyclette, e quindi aumentano un pochettino i costi e aumentano anche gli ingombri. Mm. Allora, io spero di poter rispondere a Walter da Genova, che tra l'altro vedo che il nostro Marco Lombardo, mio assistente sempre pronto e lesto, ha chiesto anche ad Alberto Bonino appunto se ci può aiutare a rispondere a questo ascoltatore. Comunque sentiamolo, Walter da Genova, buongiorno e buon anno. Walter. Buongiorno, grazie, buon anno anche a voi. Ci dica tutto. Io ho il caso di un appartamento che è intestato a mio figlio per godere delle agevolazioni della prima casa e che comunque poi ho pagato io. Mm-hmm. Questo appartamento è in via di ristrutturazione. Mm-hmm. E a parte il fatto di sapere di poter godere di circa 90.000 o 100.000 euro per il risparmio energetico, per la riqualificazione, noi avremo intenzione di fare, ed è già stato approvato, una vasca di altezza 1,20 m per poter camminare all'interno della vasca per fare fisioterapia. Certo. E vicino alla vasca alcuni attrezzi che servono soprattutto a me, perché sono disabile a seguito di un incidente. Mm-hmm. 2007. E allora volevo sapere come fare per godere magari di queste ulteriori agevolazioni. Certo. Come specificare, come inserirlo? Aspetti lì, Walter. Allora, intanto le possiamo già dare qualche risposta, poi se avesse la possibilità e volesse qualche dettaglio in più, se ci vuole scrivere, poi le daremo magari una risposta più articolata e dettagliata. Però credo che Alberto Bonino possa rispondere, poi chiaramente coglieremo anche i suggerimenti di Franco Confalonieri e Busani, che dice: ma guarda che so rispondere anch'io, mi hai escluso completamente da questo giro, ma sentiamo Bonino. Sì. Sì, grazie. Dunque direi che per le esigenze del nostro radioascoltatore non ci sono particolari problemi a livello urbanistico per installare all'interno di un appartamento alcuni attrezzi o alcuni impianti destinati alla fisioterapia del soggetto in cui vi risiede. Certo. Naturalmente è necessario che questi non si configuri come un locale tra virgolette pubblico, cioè non come una palestra. Non mi pare che sia il caso, ecco, esatto, quindi lo possiamo escludere subito? Possiamo escludere questo, perché sennò dovrebbe seguire altre procedure. Naturalmente a livello di benefici e detrazioni fiscali sono comprese tutte le opere di ristrutturazione dell'appartamento qualora rientranti nelle lettere B, C e D dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 380, che sono manutenzioni straordinarie, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Notaio Busani, l'installazione di particolari vasche, no, se sono effettuate nell'ambito della ristrutturazione edilizia, possono essere detraibili sulla legge del detraibile al 50%. Al 50%, esatto, infatti volevo chiederle in che percentuale, perché mi pare di capire che tutto l'impianto delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni sia rimasto inalterato, notaio Busani, quindi possiamo ancora continuare a rimettere a nuovo radicalmente le nostre case, perché abbiamo incentivi ancora molto corposi. Sì, sì, gli interventi che questo ascoltatore ha enunciato sono classiche manutenzioni straordinarie, quindi sia che vengano fatte nell'ambito di una ristrutturazione complessiva dell'appartamento, sia che siano interventi unitari, e cioè a prescindere da una ristrutturazione vengano effettuati questi interventi, sono interventi di manutenzione straordinaria, quindi perfettamente detraibili. Non ci sono adempimenti da fare, perché non richiedono alcun tipo di provvedimento comunale, basta che le fatture enuncino e i bonifici soprattutto. Esatto, si bonifici paga con il bonifico parli, nel senso che espliciti il fatto che sono lavori che fatti ai sensi della legge che dà luogo alla detrazione. Sì. E quindi, insomma, Walter, le ripeto, se vuole scriverci. Invece lei, dottor Confalonieri, ha dei suggerimenti da dare a Walter, che si sta attrezzando con il suo piccolo angolo per fare riabilitazione, essendo una persona disabile, però caso interessante. Certo. Molto, molto sinteticamente, e intanto l'idea è molto intelligente, in quanto l'acqua è uno strumento formidabile di rieducazione e di riabilitazione. Il solo movimento in acqua, essendo in assenza di gravità e avendo resistenze al movimento notevoli, ci consente di migliorare. Quindi sicuramente un'ottima scelta, attenzione però a valutare bene l'impatto in termini di peso. Perché una vasca dell'altezza di 1,20 m di acqua ha un peso notevole, quindi bisogna vedere se è un piano terra o se no, se la struttura della casa è in grado di reggere un carico di questo tipo. Non trascuriamo questo particolare. Certo, speriamo che Walter sia stato consigliato al meglio anche per questa novità che intende introdurre nella sua abitazione. Prima il notaio Busani mi chiedeva: ma su Twitter non ci guardate? E come no? Infatti Martina ci scrive: per il 2014 ho in programma di osservare la costruzione della mia casa mattone dopo mattone. Anche questo un bel esercizio. Per chi costruisce dal nuovo ci sono delle novità, notaio? Sì, beh, chi costruisce, chi compra il costruito nuovo, qualche novità c'è. Ma magari Martina, ammettiamo che abbia invece un terreno sul quale stia costruendo la sua casa. Ah, niente, lì lei ha sicuramente una gran fortuna intanto. Sì, ha sicuramente dato in appalti i lavori, salvo che li esegua lei personalmente. Se ha dato in appalti i lavori, l'aliquota IVA sugli appalti non cambia, né cambiano le aliquote IVA sui materiali che occorre comprare per effettuare questi lavori. Cambia qualcosina se compro una casa da un costruttore, qualcosina nel senso che quando compro una casa da un costruttore pago l'IVA, l'IVA del 10% se non è prima casa o del 4% se è prima casa. Questo non cambia, purtroppo, polemicuccia, il nostro legislatore è un po' sbadato: chi compra da un privato paga il 2% sul valore catastale, chi compra da un costruttore paga il 4% sul prezzo, e quindi i costruttori... Sempre prima casa ma non si capisce perché la diversità del venditore. I costruttori sono un po' arrabbiati, parecchio svantaggiati da questo fatto. Quando compro in IVA devo pagarne imposte di registro ipotecario catastale in misura fissa, questa è la leggera variazione, nel senso che le imposte fisse, che erano 168 euro, passano a 200 euro. Nel caso del privato, e quindi l'imposta di registro, si pagavano 320 euro di bollo di tasse ipotecarie, e queste non si pagano più. Quando si compra in IVA invece si continuano a dover pagare. 800 24 00 24, voi continuate a prenotarvi, perché nella seconda parte del programma, dalle 12:08 e rotti fino alle 12:30, daremo spazio a tutte le vostre domande sul tema delle novità fiscali per quello che riguarda la compravendita, ma anche sul tema dell'allestimento nella vostra abitazione attuale di un piccolo angolo per il fitness, per il vostro benessere. Siete pigri? Non volete spostarvi una sera che siete arrivati a casa appunto per andare in palestra? Preferite fare i vostri esercizi lontani dagli occhi indiscreti altrui? Allora come potete organizzarvi magari senza spendere un occhio della testa? Perché poi, dottor Confalonieri, non è che questi attrezzucci siano poco costosi? Un bel tapirulano, una bella cyclette sono comunque un po'... No? Sì, sono qualche migliaio di euro i più evoluti, quelli che però ci garantiscono anche nel tempo durata, quindi diciamo che è paragonabile all'investimento di due o tre anni di palestra. Ecco, no, pensavo di un paio di rate di mutuo. No. Super giusti, possiamo fare anche questo paragone. Allora, io sentirei un paio di domande alle quali poi rispondiamo nella seconda parte del programma. Le nostre due ascoltatrici romane, Marisa e Luisa, cominciamo con Marisa. Buongiorno, rapida, grazie. Buongiorno a tutti. E il mio problema è quello di sapere se con le nuove norme introdotte dal 1 gennaio 2014, sì, sono rimaste sempre in vigore quelle relative ai trasferimenti di immobili in caso di divorzio stabilite dal tribunale. Va bene, Marisa, abbiamo già i nostri ospiti pronti, ma non rispondiamo perché rimandiamo la risposta a dopo il giornale radio. Chiedo quindi ancora qualche istante di pazienza a Luisa da Roma, che facciamo così, Luisa, magari le lasciamo chiudere il telefono e la richiamiamo tra poco. 800 24 0024, continuate a prenotarvi, a tra poco. Cuore e denari. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. E vabbè, qua non c'è neanche nessun notaio, notaio Busani, che deve comunque andare tanto a controllare se ma probabilmente non ci vuole neanche l'app in quella casa lì. No, direi di no. Non è detto però, dottor Franco Gonfalonieri, che non si possa allestire in questa casetta così modesta un angoletto, un angolino per fare un po' di ginnastica. Eh no, non manca lo spazio. Infatti, senta, adesso ritorniamo alle nostre questioni legate alla nuova tassazione sulle compravendite, più vantaggiosa per i contribuenti, soprattutto per chi acquista, ma visto che abbiamo aperto anche la parentesi, un focus sul tema della ginnastica in casa, quale tipo di ginnastica è vincente rispetto a quella che si fa in palestra, dottor Gonfalonieri? Ma se direi sicuramente la ginnastica preventiva o post rieducazione, post riabilitazione, nel senso che non richiede spazio, non è particolarmente difficile. Se noi andiamo da uno specialista prima, ci facciamo visitare, ci facciamo dare un programma da svolgere a casa, la scelta è sicuramente vincente perché riusciamo a farlo con continuità e i programmi mediamente durano dai 12 ai 15 minuti, quindi è facile inserirli nel contesto della nostra quotidianità. E allora, primo proposito dell'anno, lo lanciamo subito ai nostri ascoltatori. Dottor Gonfalonieri, cominciate a fare un piccolo esercizio casalingo, anche se non avete fatto fino a ieri, magari alla fine del 2014 avremo un bel sedere più rassodato, certo. Lo dico alle donne. Quindi ecco, ci dia un po' un consiglio, per esempio, per coloro che si sono devastate, come me per esempio, in questo periodo da stasera ricomincio la palestra, però insomma, per chi non ci vuole andare, vuole fare in casa. Ma io direi, così facciamo contento anche il notaio che parlava del camminare, sai, io sono uno lui molto corre, favorevole. Lui corre. Correre, beh, camminare, per chi si è devastato è più facile camminare che correre. Quindi abbinare una camminata magari la mattina presto con 10-15 minuti di esercizi per potenziare addominali e glutei anche in isometria. Cosa significa in isometria? Che ci limitiamo a contrarre il muscolo come se dovessimo fare il movimento, ma non eseguiamo il movimento in modo tale che non c'è sovraccarico a livello articolare. Allora, direi anche di fare attenzione al fai da te, perché in alcuni casi può essere dannoso, e poi formuleremo anche le dovute raccomandazioni su questo, ma ritorniamo alla tassazione sulla casa. Allora, Marisa da Roma, notaio Busani, ci ha chiamato prima, divorziata, vorrei sapere se le nuove norme mantengono le agevolazioni previste appunto in caso di in caso di divorzio, ma non mi ricordo se volesse fare, c'era un appartamento probabilmente prima condiviso dai coniugi. Allora, questo tema ci introduce a un argomento particolarmente spinoso, che è il seguente: è una di quelle famose cose difficili a cui accennavo prima. La legge di riforma di cui abbiamo finora parlato dà un taglio lineare a tutto ciò che in precedenza era qualificato come, virgolette aperte, agevolazione, virgolette chiuse, o esenzione, anche qui tra virgolette. Il problema di noi tecnici del diritto fiscale è quello di capire quali sono quelle norme preesistenti al 31 dicembre che erano qualificabili in termini di agevolazione o di esenzione, che come tali sarebbero cancellate dal sistema. Uno dei casi più evidenti, perché è più socialmente evidente, è proprio quello dei trasferimenti in occasione delle procedure di divorzio e di separazione coniugale. Perché? Perché queste procedure normalmente hanno un esito, nel senso che il bene di proprietà comune, l'appartamento di proprietà comune, oppure i beni immobili di proprietà comune finiscono a qualcuno dei due, un po' per uno o a uno solo dei due. Fatto sta che la legge sul divorzio, che poi è stata applicata dalla Corte Costituzionale anche alle separazioni coniugali, esonera completamente da tassazione questi trasferimenti che avvengono in occasione delle procedure di divorzio e quindi di separazione. E oggi ci si chiede, questo punto non è stato ancora esaminato dall'Agenzia delle Entrate, c'è solo un'interpretazione del Consiglio Nazionale del Notariato a livello nazionale, ma è un'interpretazione molto autorevole, però non è quella dell'Agenzia delle Entrate. Quindi su questo l'agenzia non è ancora intervenuta. C'è un'interpretazione che dice che quella norma della legge sul divorzio, che viene applicata anche alle separazioni, non consiste tecnicamente in un'agevolazione, ma, qui sta il difficile, in un trattamento particolare di una situazione socialmente rilevante. Quindi non sarebbe un'agevolazione, ma sarebbe il trattamento fiscale proprio di quella situazione. Come tale non sarebbe tagliata fuori dal nostro ordinamento a seguito della riforma, perché se invece fosse così, fosse interpretata nel senso di agevolazione rispetto a una tassazione zero che vi era fino al 31 dicembre, oggi avrebbe una tassazione piena, e quindi il solito 9% se non si applica la prima casa, o il solito 2% se si applica la prima casa. Chiarissimo. Allora, stavo incuriosendo tra gli sms degli ascoltatori, che come sempre sono di varia umanità. Dottor Confalonieri, non solo ascoltatore che ci scrive vuole fare movimento in questo 2014, ma in realtà vorrebbe aprire, pensavo che volesse aprire un angolo della sua casa, allestire un angolo della sua casa per le arti marziali. In realtà vuole aprire una palestra di arti marziali. Adesso non so se siamo in grado di dare tutte le procedure, ma magari qualche consiglio, dottore, ce lo può dare. Ma dal punto con chi? Con lei, dottor Confalonieri. Dal punto di vista normativo. Poi magari interrogo anche Buzzani, che non si sa mai, che con i clienti un po' inferociti per tutte le tasse che gli devono sempre lasciare sul suo tavolo, che non prende lui ovviamente, ma li conferisce allo Stato, però qualcuno magari con qualche mossa strana di karate o judo si presenta. Comunque ci dica lei. Dal punto di vista normativo appunto non saprei cosa dire. Dal punto di vista della qualità dell'investimento, tutto sommato non mi sembra un'idea malvagia, nel senso che le arti marziali sono tra le attività che non hanno risentito della crisi in termini di iscrizioni e di movimento, quindi sicuramente c'è un buon mercato che si è mantenuto su livelli validi, e inoltre gli spazi richiesti per questo tipo di attività non sono particolarmente ampi, quindi l'investimento può essere ridotto, non è necessaria neanche un'attrezzatura complessa, per cui sicuramente favorirei questa idea del nostro ascoltatore. Ecco, tra l'altro cominciamo anche a far fare ai nostri bambini magari qualcosa di diverso rispetto al solito calcio, lo dico soprattutto per i maschi, perché anche questo appunto è uno sport secondo me anche molto educativo, no, dottor Confalonieri? Sono perché c'è grande rispetto. Mia figlia dai 3 ai 5 anni ha fatto proprio judo ed è stata un'esperienza sicuramente. Poi che cosa è successo? Dove l'ha mandata? Poi ha fatto altre scelte lei, non l'ho fatto io, però fa 6 anni. Vabbè, 5 anni è già un bel peperino. Quindi adesso preferisce il cavallo e la pittura. Bene. Beh, ci piace anche comunque l'equitazione. Allora, andiamo ad altre domande invece per il notaio. No, però prima di sentire Luisa da Roma, l'altra ascoltatrice, volevo anche chiedergli di un'altra novità che in questo caso non è contenuta nel decreto istruzione di settembre, nel decreto IMO di marzo 2011, ma nella legge di stabilità. Allora, avete presente quella situazione che si verifica quando avete messo gli occhi sulla casa dei vostri sogni, e per fermare questo investimento dovete dare una caparra e quindi una piccola quota di anticipo. Generalmente questo assegno, notaio Busani, chi lo teneva, dove andava e perché d'ora in poi dovrete tenerlo voi notai? Allora, è parzialmente diverso. Con la legge di stabilità. Mi smentisca sempre così. È parzialmente diverso perché no, non tocca la legge di stabilità, le caparre, gli acconti, ma tocca i saldi del prezzo in sede di rogito. La legge di stabilità comunque introduce finalmente, direi, in Italia un principio che già vige all'estero, in base al quale la scena contrattuale a cui siamo tutti abituati cambierà. La scena contrattuale a cui siamo abituati è il giorno che si firma, soldi sul tavolo, in modo che l'acquirente paga il venditore. Questa scena cambierà tra breve, quando verrà emanato il regolamento attuativo che la legge di stabilità prevede, c'è tempo 120 giorni, cambierà nel senso che il saldo del prezzo, non le caparre che sono state date prima, verrà trattenuto dal notaio in attesa che... Il saldo del prezzo addirittura, quindi è una cifra molto più consistente. Spero che sia consistente, ma per il fatto che spero che le caparre e gli acconti siano pagati in misura bassa, in modo da non correre rischi. Il saldo del prezzo, non le caparre, verrà trattenuto dal notaio in attesa che il notaio trascriva l'atto nei registri immobiliari. Non molti sanno che è vero che quando io firmo il rogito, io contraente, in quel momento la proprietà passa. Ma formalmente la proprietà arriva quando c'è l'iscrizione al registro immobiliare di questo atto. Per il che passa sempre qualche giorno. Per fortuna non capita quasi mai che ci siano dei guai in questo senso, però potrebbe benissimo darsi, complice anche la crisi, che tra il giorno che si fa rogito, che si firma rogito, e il giorno in cui il rogito viene iscritto nei registri immobiliari, capiti qualche evento pregiudizievole. Faccio un esempio: il venditore aveva dei creditori e i creditori scrivono un'ipoteca giudiziale sulla casa. Faccio l'esempio di una truffa, per estremizzare il caso e farmi capire: se il venditore Tizio vende la casa a Caio e lo stesso giorno la vende a Sempronio perché organizza due scene contrattuali, caso capitato, purtroppo, per fortuna non sono tantissime. Bella questa immagine della scena contrattuale, notaio, complimenti. La scena mm-hmm. contrattuale da cinematografia, da cinematografia proprio. Ecco che se Tizio vende la stessa casa prima a Sempronio e poi a Mevio, organizzando due scene in due studi notarili diversi, quindi truffando tutti, cosa... beh, che truffino pure i notai che contestualmente capita, si lasciano gabbare. Purtroppo capita, perché le truffe si chiamano truffe apposta perché sono i truffati. Fatto sta che chi è che vince tra i due, chi è che va a casa con la proprietà, non chi firma per primo, come in teoria sarebbe, ma chi per primo ha la notifica sul registro immobiliare. Benissimo, d'ora in poi questa cosa non capita mai più. Perché? Perché i soldi se li tiene il notaio fino a che non trascrive, quindi tempo a qualche giorno i soldi vengono passati al venditore. Ma voi siete contenti di questa novità o no, voi notai? Assolutamente sì, perché riduce moltissimo questo rischio di queste ore, di questi giorni che intercorrono tra il momento della firma e il momento in cui vi è la consolidazione della proprietà. È certo che aumenta le responsabilità, è certo che aumenta i gravami, però nel contesto della sicurezza del traffico immobiliare è una norma assolutamente di civiltà giuridica. D'altronde voi siete chiamati a mettere il timbro dello Stato appunto su queste operazioni, per cui e quindi più sicure sono meglio stiamo tutti. Mi permetta sulle caparre. Le caparre restano fuori da questo sistema e quindi tutto ciò che viene pagato ante rogito verrà pagato direttamente dall'acquirente al venditore. Lì però per mettere in sicurezza le caparre c'è un altro sistema, quello purtroppo non molto usato, ma che invitiamo a usare quotidianamente, della trascrizione nei registri immobiliari dei contratti preliminari, cioè dei compromessi. Da alcuni anni a questa parte nel nostro ordinamento è stata introdotta una norma per effetto della quale anche il contratto preliminare, il cosiddetto compromesso, si può trascrivere nei registri immobiliari. Ciò che comporta che i soldi eventualmente pagati prima del rogito non sono persi, perché in quel momento è come se si anticipasse l'effetto di trascrizione del contratto definitivo che si ha quando appunto il rogito viene inserito nei registri immobiliari. È una cosa poco praticata, ma che metterebbe in sicurezza la contrattazione. Quindi un po' con la trascrizione del preliminare, un po' col deposito del prezzo in attesa che il contratto definitivo o rogito sia inserito nel registro immobiliare. Compra vendita in cassaforte praticamente. Assolutamente, certo. Sì, assolutamente. E finalmente in cassaforte, come accade ad esempio in Francia da tantissimi anni. Non è che poi il notaio scappa con questo denaro, non no? Non è possibile perché questi conti correnti saranno conti correnti dedicati. Vincolati, dedicati, e quindi saranno assolutamente sotto controllo e assolutamente indisponibili se non a queste operazioni. Quindi anche da questo lato la collettività può essere assolutamente tranquilla. Molto bene, abbiamo saputo allora tante cose nuove, molto interessanti, sempre più serene, speriamo, queste compravendite che speriamo siano tante nel 2014 per ridare un po' di spolvero al mercato immobiliare. Intanto ritorniamo a Roma con la nostra Luisa. Luisa, buongiorno e benvenuta a Cuore e Denari e buon anno soprattutto. Buongiorno e buon anno anche a lei. Senta, io ho questa domanda, io ho un rudere classificato come collabente. Ne vorrei come scusi, specificato come? Collabente. Collabente, che adesso sì, notaio... sembra una malattia, ma è una definizione catastale per dire che è diroccato. È diroccato, certo. Quindi rendita catastale è sotto zero, sotto Luisa. Sotto zero, sì. E adesso ne sto vendendo una porzione e il notaio, nella richiesta dei documenti, mi ha richiesto anche il certificato energetico. E il tecnico a cui mi sono rivolta, l'architetto che sta facendo i lavori di ristrutturazione, ha detto, dice, ma che tipo di certificato posso fare se non c'ha... Se non c'ha neanche un rubinetto. Dell'acqua, ecco. Ecco, volevo sapere se è indispensabile questo certificato o no. Luisa, grazie. Il notaio Busani, già come dire di sotterfugio, mi rispondeva prima dicendomi che in qualche maniera il notaio può risolvere questa situazione. Cosa, trascrivendo che cosa sull'atto di compravendita? Ma secondo me facendosi fare una dichiarazione dal tecnico che il fabbricato è privo di impianti si può risolvere la situazione. È certo che invece se fosse stato un fabbricato dotato di impianti, anche se poi il fabbricato è messo in cattivissime condizioni, lì purtroppo per una struttura della legge sull'APE il certificato va fatto. L'APE va fatto. Va allegato. Con il parziale affievolimento che, essendo cessata la sanzione di nullità che prima contraddistingueva questi atti, probabilmente l'attenzione sull'assoluta presenza di questo certificato è un pochino allentata. Senta, no, tra l'altro invece a proposito della tassazione su questa cessione di porzione di questo rudere, la nostra ascoltatrice vuole vendere una porzione di questo rudere che ha una rendita catastale pari a zero. L'acquirente di questa porzione che tassazione paga su questo atto? Sì, tutti quelli che abbiamo detto prima, 2%, 9%, no, sono sì, 2% di imposta di registro. Se un acquirente come prima casa, mm-hmm. 9% se un acquirente mm-hmm. non prima casa, mm-hmm. Sempre che sia un fabbricato abitativo, perché mm-hmm. magari non è un fabbricato abitativo, al che dovremmo stazionarci sulla aliquota del 9%, perché ovviamente quella del 2% presuppone un fabbricato mm-hmm. abitativo o che lo diventerà a fronte di lavoro di ristrutturazione. Allora, magari siamo stati seduti e non abbiamo fatto grande movimento, però, dottor Confalonieri, con tutte le informazioni che ci ha dato il notaio Busani, il cervello abbiamo messo in movimento questa mattina, perché abbiamo dovuto prestare la massima attenzione. Ritorniamo però invece ai nostri muscoli e alla ripresa dell'attività fisica dopo queste vacanze che hanno un po' devastato tutti, anche se qualcuno è stato un po' bravo, ma insomma mediamente un po' di più abbiamo fatto in termini di ginnastica da tavola, dottore? Sicuramente. Io la chiamo la ginnastica... Anche perché il benessere generale è giusto concedersi certo. qualcosa di più, io guardo sempre al benessere nella sua globalità. Io la chiamo la ginnastica della mandibola o della ganascia. Ecco. O di come. Allora, senta, andiamo al fai da te. Allora, ammettendo che qualcuno abbia preso un po' troppi chili in questi giorni, magari una persona particolarmente pigra che non è molto amante dell'attività fisica, quella fatta in palestra, in pista o in altre come dire, condizioni pubbliche, e vuole da oggi mettersi invece a fare qualcosa nella propria casa. Il fai da te, intanto, quali come dire, suggerimenti possiamo dare per non esagerare per chi non ha mai fatto nulla? Ma se l'obiettivo è soltanto quello di dimagrire e quindi dobbiamo fare un'attività di resistenza, io consiglierei di valutare la propria frequenza cardiaca a riposo, molto semplicemente di incrementarla di un 50%, quindi se abbiamo una frequenza cardiaca a riposo di 80, 80 più 40 fa 120, e quindi organizzarci con un'attività della durata di 20-30 minuti intorno a questa frequenza cardiaca, con una cyclette piuttosto che con una bike, se non con un treadmill, con un tappeto. Se non abbiamo nulla, possiamo invece più semplicemente fare delle esercitazioni sul posto, anche molto semplici, quindi anche semplicemente circonduzioni di braccia piuttosto che saltelli, cioè cose poco impegnative, per una durata di 20-30 secondi, e alternare 20-30 secondi di attività con un minuto di riposo. Durante il periodo di riposo di recupero noi ricostruiremo i depositi e le scorte energetiche bruciando grassi, e quindi questa attività molto semplice ci consentirà comunque di cominciare a rimetterci in forma. Ricordando che il 6 gennaio è l'Epifania e tutti i panettoni se li porta via. Esatto, perché ecco. Poi naturalmente per perdere peso la strada maestra, come abbiamo detto tante volte, è modificare un po' le proprie abitudini alimentari, riducendo l'apporto calorico e distribuendolo bene nell'arco della giornata. Qualche consiglio invece, dottor Confalonieri, a chi un po' più temerario da oggi decide quest'anno è il mio anno, comincio con la palestra. Sa che ci sono tanti tipi di abbonamenti, quelli anche che permettono appunto una frequentazione durante tutto il corso della giornata, sono i cosiddetti abbonamenti open. Se anzi qualcuno ce l'avesse regalato per Natale, che cosa possiamo fare se davvero la palestra non è mai stato un luogo che abbiamo frequentato volentieri? A che ora è meglio cominciare? Se cominciamo da zero, qual è il miglior orario nel corso della giornata per cominciare? Sembra una banalità, però è l'orario che ci crea meno problemi in organizzazione della vita quotidiana, se no la motivazione ci abbandonerà molto presto e l'open resterà lì come un investimento non utilizzato. E poi un'altra indicazione che vorrei dare è: valutate bene come è strutturata la palestra presso la quale vi rivolgete, cioè se è già compreso nel prezzo dell'abbonamento l'assistenza dell'istruttore o se il prezzo dell'abbonamento prevede esclusivamente la possibilità di accedere alla palestra e poi per essere seguiti avete bisogno di pagarvi un personal trainer, perché questo può cambiare molto proprio il quadro economico della nostra certo scelta. Però diciamo che se l'abbonamento ce l'hanno regalato, noi un piccolo investimento personale nel supporto di un personal trainer magari per un mese, che ci dia così l'ABC di quello che dobbiamo fare, forse è utile. Oppure andiamo da uno specialista che ci struttura una scheda che poi possiamo seguire individualmente anche senza avvalerci del personal trainer. Noi andiamo invece al nostro specialista di rogiti e compravendite, notaio Busani, al quale rivolgo la domanda di Enzo da Milano. Enzo, buongiorno, buon anno anche a lei. Buongiorno a tutti voi. Ci dica. Io volevo chiedere semplicemente al notaio Busani questo. Avevo sentito di un cambiamento anche per quanto riguarda le nuove norme che entreranno in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, inerenti le tempistiche. Mi spiego. Io dovrei rogitare in vendita a fine gennaio sostanzialmente, e dovrei rogitare in acquisto una prima casa dopo 7 giorni. Uh-huh. È possibile farlo con questo tipo di tempistica? È cambiato qualcosa? Perché sentivo di rimodulazione, cioè che deve passare una ventina di giorni tra la vendita e l'acquisto. E la contestuale acquisto appunto di un'altra esatto, casa. Esatto, tra i due rogiti una ventina di giorni. Ecco, volevo sapere solo se sostanzialmente era attendibile questa cosa o insomma... Notaio Busani, siamo nelle sue mani, nei suoi rogiti. Anzi. No, non è, dunque, no, primo non è cambiato assolutamente nulla, secondo non c'è nessuna tempistica, l'unica esatto. tempistica è... Quella che se si voglio, definisce tra le parti. Sì, ovviamente. Poi se voglio comprare una prima casa... devo aver venduto la precedente casa, perché non posso comprare una prima casa se ho una proprietà di una casa che magari vendo fra una settimana. Quindi l'unica tempistica è: se alle 9 del mattino vendo, alle 10 posso ricomprare. Non deve passare 2 giorni, non devono passare 20 giorni. L'importante è che sia un minuto dopo l'acquisto della nuova casa rispetto alla vendita della precedente, anche perché questa scansione, il fatto che io ricompro subito dopo aver venduto, mi genera un credito d'imposta. Vuol dire che ciò che pagai quando comprai la casa che poi ho venduto, posso scomputarlo dalle imposte che devo pagare nel nuovo acquisto. Qui una tempistica c'è, perché non deve passare un anno tra la vendita e il nuovo acquisto. Quindi ripeto, voglio comprare una casa, devo essere privo di case. Per essere privo di case devo aver venduto la precedente casa, devo averla venduta un minuto prima, un'ora prima, un giorno prima, 6 mesi prima. A quel punto sono libero da casa e posso comprarmi la prima casa. Se poi voglio il credito d'imposta, non devo far passare un anno tra la vendita e il nuovo acquisto. È stato molto chiaro, notaio Busani. Grazie molte per essere stato con noi. Buon anno e l'aspettiamo chiaramente presto. Ma soprattutto sappia che le girerò tantissime mail che ci sono arrivate dai nostri ascoltatori che vogliono una piccola consulenza personalizzata da parte sua. Quindi a tutti gli ascoltatori che ci hanno anche scritto degli sms, ai quali, perché sono un po' complicati, non abbiamo dato risposta, scriveteci a cuoredenari@radio24.it. Dottor Confalonieri, buon anno anche a lei. Buon anno a tutti voi. A grazie. Prestissimo nei nostri studi. Grazie a Paolo Corleoni, Marco Lombardo. Noi torniamo, questa volta non mi sbaglio, lunedì. Che cosa c'è, notaio? Niente. A lunedì, buon weekend a tutti.